Allora Paolo, facciamo una fotografia del tuo viaggio. Partiti il 12 luglio da Alba, 120.000 chilometri, e l'ultima tappa il 15 agosto a Festa Ambiente. 130 cooperative e 570 prodotti. E quante carceri hai visitato? Ne ho visitate 32. Non ti hanno tenuto dentro però? Per il momento no. Oggi a Mine Vaganti, Paolo Massenzi e il suo Jail Tour. Mine Vaganti di Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e benvenuti a questa ultima puntata di Mine Vaganti in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, due ore per raccontarvi un'altra Italia. Ci piace dare voce a storie, persone, personaggi che hanno cose da dire. Noi queste persone le etichettiamo come mine vaganti perché non fanno rumore, ma ci sono, ci piace scovarle, ci piace trovarle, ci piace appunto presentarvele. E quella di oggi qua con me in studio ne ha di cose da dire perché un giorno si è svegliato e ha capito che era ora di fare qualcosa, di dare una svolta alla sua vita, e l'ha fatta acquistando un camper. Mine Vaganti di Radio 24 è la nostra pagina di Facebook, ci potete trovare lì troverete tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Lì fra pochissimo troverete caricata anche una foto qui in studio fatta ora, dove ci sono io e con me c'è Paolo Massenzi. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Un amico, lo scorso anno ti abbiamo intervistato, che eri già in viaggio con il tuo camper, questo camper che funziona ancora, questo camper miracolato. Funziona sempre meglio. Quanti anni ha? È del 1983. E Paolo, è un vecchio camper, motorhome per l'esattezza, se non si offende. Sì. E ha viaggiato, ha fatto i suoi 120.000 chilometri in giro per l'Italia. L'anno scorso eravamo a Riva del Garda quando ci siamo sentiti. È vero. Un viaggio strano, perché tu stai facendo questo tour, così l'avevi chiamato, questo viaggio, questa ricerca nelle carceri italiane, un tema attualissimo, se ne parla quotidianamente, ma forse non abbastanza per lo stato tragico appunto delle carceri e di chi ci vive dentro alle carceri. Tu hai deciso di fare questa sorta di pellegrinaggio alla ricerca dell'economia carceraria, cioè di quello che all'interno dei carceri viene ideato prima, poi anche realizzato e prodotto. Sì, ho cercato in controtendenza di trovare tutto quello che funziona. Quando si parla di lavoro è un argomento importantissimo il carcere, purtroppo per tanti motivi ce n'è poco, quindi bisogna girare, viaggiare, incontrare, censire, perché comunque nessuno sapeva l'anno scorso, ma ancora oggi i dati non sono certi, quante fossero le attività dentro e fuori dal carcere per il reinserimento dei detenuti. E quindi tu insomma stai facendo, hai censito, anche se è una sorpresa quotidiana, poi andremo a capire le cose che stai cercando e le cose anche che hai trovato. Recuperiamoci.org è il portale di riferimento per questa tua attività. Un cambio vita però, nel senso che tu nella vita scorsa facevi tutt'altro. Mi occupavo di informatica notarile e di ristrutturazioni. E poi cosa è successo? Ma poi ho deciso intanto che volevo fare qualcosa di diverso e che allo stesso tempo mi interessava cominciare a vedere dove gli altri non lavorano. Io ho sempre lavorato in questa maniera, nel senso che ho sempre cercato attività che fossero innovative, e guardandomi intorno mi sono reso conto, a forza di sentirne parlare male, che dentro al carcere ci sono tante risorse che si possono sfruttare. In questo momento che tutti dicono, giustamente, perché i dati e le notizie purtroppo non sono confortanti, però io mi occupo di un percorso diverso, mi sono voluto occupare di un percorso diverso, e soprattutto immaginando che ci sono tante realtà che possono essere promosse, aiutate, incentivate, riattivate, e questo è il nostro viaggio. Quindi hai mollato tutto, col tuo camper arrivi davanti a un carcere, bussi e ti aprono, cioè, è più facile uscire o è più facile entrare intanto in un carcere? Dunque, è difficile entrare ed è difficile uscire, però ormai tramite ovviamente l'amministrazione penitenziaria e i canali istituzionali, quindi non si va davanti a un carcere, si suona e si entra, perché non è ovviamente possibile, ma attraverso i provveditorati, attraverso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Abbiamo comunque trovato momenti di incontro, abbiamo organizzato anche fatto delle fiere insieme, come qui appunto a Milano a marzo, invitando tutti i progetti, quindi anche i progetti che sono dell'amministrazione penitenziaria proprio. Quindi faremo un lungo itinerario attraverso le cose che hai trovato. Partiamo però una fotografia, forse una delle cose, se uno ti chiede la cosa più curiosa, più simpatica o la prima che hai trovato all'interno di un carcere che vale la pena far vedere anche radiofonicamente, quale può essere? Barcellona Pozzo di Gotto, che è un carcere giudiziario, un OPG, ospedale psichiatrico giudiziario, una falegnameria in una parte del carcere dismessa che produce arredi e porta flebo per bambini. Fantastico, recuperiamoci.org il sito, 349-238-6666 per i vostri messaggi, anche se avete domande da porre in diretta a Paolo, oppure ci trovate su Facebook Mine Vaganti di Radio 24. Noi andiamo a scoprire un'altra storia di qualcun altro che ha scelto, deciso di cambiare vita. Non c'è più vento per noi, tempo non ci sarà per noi che allora cantavamo con voci così chiare. Non c'è più tempo per noi, vento non ci sarà per noi che abbiamo navigato quel mare così nero. Ma se la vita è tempesta, tempesta allora sarà. Ciao Romano, pensavo di dedicarti Tempesta di Branduardi come colonna sonora della vostra scelta. Bellissima, grazie mille. Ciao Romano, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Da dove partire? Allora, lui si chiama Romano Piazzini. Eri avvocato, va bene se uso il passato? Eri notaio, sì, scusa, avvocato o notaio? Entrambe le cose. In Svizzera si può essere sia avvocato che notaio cumulativamente, si guadagna di più. Grazie per la precisazione. Sto scherzando, no. Però, comunque appunto sono cumulabili queste due funzioni. Ho capito. Già quello non ti bastava, quindi già hai avuto un primo cambio di vita, vero? Esatto, io penso che dopo una decina, tra i 10 e i 15 anni è veramente opportuno cambiare vita, perché dopo un processo di evoluzione si è confrontati con la routine, quindi subentra un processo di involuzione dopo una quindicina d'anni, per cui è interessante sia per se stessi che per l'organizzazione alla quale si appartiene o l'attività alla quale si appartiene effettuare un cambiamento. E difatti dopo questo studio legale notarile che ho gestito per una decina d'anni a Lugano, ho optato per diventare comandante della polizia del Cantone Ticino dopo una selezione. I requisiti erano quelli di essere avvocato e alto ufficiale dell'esercito, io possedevo entrambi questi requisiti e quindi mi hanno selezionato. Perfetto, è lì la seconda fase della tua vita. E adesso invece siete partiti tu e tua moglie con la terza fase della vostra vita, che anche qui il tutto è iniziato con un vendiamo tutto, cioè avete venduto casa, avete rinunciato al lavoro, siete così rimasti senza nulla perché tutto quello che avevate lo avete investito in una barca a vela. Esattamente, cioè, il nostro amore per il mare dura da circa una quindicina d'anni e 12 anni fa ci è venuto in mente proprio questo sogno che ci sembrava irrealizzabile, francamente. E poi pian piano, accarezzandolo sempre senza troppo accanimento, ma comunque tenendolo sempre presente, penso che grazie alla legge d'attrazione questo sogno si è realizzato. E siete partiti per questo giro del mondo, nel senso vi siete dati... Siamo partiti il 14 di agosto da Genova e adesso siamo in Corsica, stiamo proprio navigando in questo momento davanti a Capocaccia, nella baia, nel Golfo di Alghero, stupendo paesaggio tra l'altro, con una quindicina di nodi di vento, non si può aver di meglio, insomma. Sì, no, infatti lo immagino. Romano, ma come hai fatto a convincere tua moglie o è stata tua moglie a convincere te? Ma guarda, credo che ci siamo sorretti assieme. La mia grande fortuna è appunto questo aspetto, il fatto di riuscire a condividere con lei tutti gli interessi. E quando ci sono degli interessi convergenti in una coppia si sta veramente bene. Noi lavoravamo anche assieme e quindi siamo da anni ormai, da una ventina d'anni lavoriamo 24 ore, o siamo insieme da 24 ore su 24 e francamente non ci sono quasi mai tensioni, non ci sono mai litigi, per cui è veramente una vita di coppia illuminata la nostra. Certo, tra l'altro leggevo nel vostro blog che proprio il suo depilatore vi ha quasi salvato la vita recentemente, ma ci racconterai come subito dopo le informazioni per chi sta viaggiando. Mine Vaganti. Si chiama A Go Go, la barca scelta da Marco e Luana e Romano Piazzini per il loro viaggio. Ma scusa, Romano o Marco? Perché sul quotidiano. No, Romano, sul secolo XIX hanno sbagliato il nome. Infatti, Romano. Ho buttato l'occhio e ho visto un Marco, ho detto no, c'è qualcosa che non torna. E appunto, questa coppia svizzera, questa scelta forte di mollare tutto e fare questo giro del mondo, 19 tappe attraverso i continenti, sulle blog che diamo subito, è www.sylinietaagogo.ch, già messo il link nelle nostre pagine in Facebook, e vi potremo seguire giorno per giorno, leggere anche le vostre avventure, tra le quali appunto ho scherzosamente riportato quella delle Piledi, le batterie delle Piledi che hanno permesso al navigatore di tornare in funzione, giusto? Esatto, no, scherzosamente un'intervistatrice della televisione della Svizzera italiana aveva chiesto quali erano i problemi per una donna a bordo e, non sapendo bene cosa dire, lei ha detto la depilazione è sicuramente un problema, e per cui ho portato il mio Epilidi. E guarda caso, l'altra notte ci sono andati in tilt diversi GPS di bordo, intanto perché alcuni vanno a batterie, quindi le batterie erano tutte scariche, e poi quello di bordo, proprio quello fisso, ha avuto un problema di elettronica e siamo rimasti proprio senza GPS. Improvvisamente lei è venuto in mente che l'Epilady aveva due batterie nuove e appena sostituite, e quindi abbiamo fatto capo a queste batterie per inserirle nel GPS. Vedi queste donne. Se ne è buono. Certo. Romano, ma al di là dell'avventura, perché avventura sarà, tre anni sono tanti, e una svolta nella vita, comunque una scelta forte, non vi spaventa? No, direi di no. Guarda, noi abbiamo modificato anche i nostri valori. In sostanza, quando mi trovavo 25-30 anni, i valori erano ben altri, quindi successo, carriera, denaro e aspetti materiali. A 50, almeno sono sulla soglia del 50, i valori sono diversi, sono la salute, la famiglia, gli affetti e soprattutto il tempo che passa. E quindi ho sempre detto la sabbia trascorre veloce nella clessidra della vita, per cui bisogna adesso a 50 anni di trovare il sistema per conciliare le proprie passioni con la vita professionale o con l'attività di cui ci si occupa, ed è stato questo il motore che ci ha indotti durante 8 meno a risparmiare e a mettere da parte il capitale necessario per poter effettuare questo giro. E cosa succederà dopo questi tre anni, nel senso che avete già progettato anche i tre anni più un giorno, nel senso ritornerete poi alle vostre vite di prima o vi fermerete in uno dei tanti porti che toccherete? Guarda, ci siamo interrogati a lungo, ma non senza darci una risposta, intanto perché vogliamo goderci proprio, gustarci proprio questo giro, e soprattutto perché molto probabilmente, credo, ritorneremo cambiati come persone, con esigenze diverse, molto più contenute, perché la vita di barca è una vita molto semplice, essenziale e genuina, e quindi se, e come auspico, ritorneremo in questo modo, avremo anche delle esigenze molto ridotte a livello proprio professionale. Perfetto. E familiare, insomma. Perfetto. Comprerai le batterie nuove per il depilatore di tua moglie? Sai cosa? Prenderò uno di quei baracchini a manovella, probabilmente, per ricaricarle. Infatti, bisogna organizzarsi. E, il blog verrà aggiornato, se non giorno per giorno, comunque ci sarà possibilità di viaggiare con voi? Sì, allora l'idea era quella di aggiornarlo giorno per giorno, fatichiamo di tanto in tanto a trovare i collegamenti wifi e così via, per cui adesso dovremmo mettere a punto un sistema radio onde corte che ci permette di inviare delle mail anche in alto mare, ma appunto l'idea è proprio quella di effettuare questa esperienza fino a Gibilterra, che stiamo effettuando adesso, tra una decina di giorni ci sposteremo dalla Sardegna alla Costa Azzurra, poi andremo alle Baleari e ci avvicineremo sempre più a Gibilterra, e nel Mediterraneo contiamo proprio di risolvere tutti questi problemi tecnici per poter accedere all'Atlantico con i problemi, con tutto quello che necessita che sia, appunto, insomma. Perfetto, a go go in giro per il mondo. Grazie davvero Romano, ciao e buon vento. Grazie a voi. Ciao, buon vento, ciao, anche a voi. Arrivederci, ciao. torniamo dentro ai carceri. Lo facciamo con questo concerto. Questi sono i suoni e i rumori delle donne detenute delle carceri di Borgo San Nicola di Lecce. E insieme alla cooperativa che ha ideato, la cooperativa Officina Creativa, l'associazione no profit che opera dentro al carcere con il brand Made in Carcere, hanno fatto questo concerto in collaborazione con un gruppo statunitense, Soundress. Hanno dato voce ai rumori del lavoro, c'è la sarta che taglia, c'è il ticchettio appunto delle forbici, insomma hanno veramente sonorizzato e remixato quelli che sono i rumori del lavoro quotidiano, e probabilmente insomma stanno lavorando anche a un suono, a un CD con i suoni del carcere, i suoni del lavoro del carcere. Abbiamo linkato il video sulle nostre pagine in Facebook che racconta questa attività, e con noi c'è Paolo Masenzi che sta facendo questo giro d'Italia all'interno delle carceri per cercare di raccogliere, di censire, di incentivare anche in parte con la sua presenza il lavoro positivo, il lavoro creativo, ma anche il lavoro artistico, Paolo, perché creatività e arte, che sono cose strane da pensare all'interno di una cella, però lì paradossalmente c'è proprio spazio almeno per evadere con la testa. C'è tantissima creatività in carcere, di qualità soprattutto, quindi non è più il pensiero non è più quello della produzione della Madonnina fatta dal detenuto. Ci sono artisti veri e propri che producono, come ad Alessandria, sotto pseudonimo c'è un pittore che fa dei quadri naif bellissimi e sono veramente apprezzati, o altrimenti la serigrafia e le opere d'arte fatte con la serigrafia. Ci sono una decina di serigrafie in giro sparse per l'Italia che producono anche opere d'arte. Uh-huh. E poi c'è la creatività fatta con tutti gli oggetti di recupero. Dai, facciamo un giro. Adesso non andremo a toccare tutte le carceri che tu hai visitato, però dacci qualche esempio appunto qua e là in Italia delle cose che hai visto e che hai raccolto e che hai portato sul tuo camper, no? Che è una sorta di vetrina permanente di quello che viene prodotto all'interno delle gallerie italiane. Come creatività? Come creatività, o come oggetti, o come qualsiasi cosa che consideri degna di essere raccontata. Ferro battuto a Fossano, vado in ordine geografico così sì? Mi aiuto. Ferro battuto a Fossano, ferro e fuoco. Dopodiché a Bollate ci sono varie attività creative, anche perché Bollate è un carcere particolare. Quindi c'è molto spazio al lavoro, e anche ci sono le sale hobby, cioè una sala hobby che serve per le produzioni personali o per lo svago personale, è utilissimo peraltro. Quindi ho trovato le lavorazioni del cristallo, piuttosto che la cooperativa Alice che produce sartoria, sia a Bollate che a San Vittore. Dopodiché a Bologna ci sono coloro che smaltiscono i cesti, pardon, più che Bologna, a Padova abbiamo la lavorazione della carta, a Padova e Novara, e si producono oggetti con carta riciclata. Mm-hmm. E quindi la cooperativa Altra Città e la cooperativa quelli di Via Sforza, che è all'interno del carcere, un carcere di massima sicurezza che è Novara. Poi cominciando a scendere a Firenze si fanno le bambole. Si fanno le bambole all'interno del carcere? All'interno di Sollicciano, del carcere di Sollicciano, c'è l'associazione Pantagruel che produce con un laboratorio all'interno del carcere e recentemente anche nel carcere di Empoli. Uh-huh. E quindi producono bambole e altri oggetti sempre creativi. Famosa bambola cuscino, che è la bambola del neonato fatta in materiale anallergico. Poi c'è anche c'è ironia, no? E soprattutto nei nomi. Ricordo in uno dei nostri incontri che mi hai fatto assaggiare, per esempio, un bicchiere di Vale la Pena, sì, che era un rosso ottimo. Prodotto dove? Ad Alba, Dolce boccetto di Alba. È stato il primo oggetto in assoluto che ho caricato sul camper, il vino, giustamente. Giustamente. Il nostro è un viaggio anche enogastronomico. Quindi... E poi ricordo altri nomi scherzosi, c'era la banda biscotti, esatto, Gatti Galeotti e poi tanto altro ancora, perché comunque c'è necessità anche di fare ironia e quindi vale la pena, serve anche per parlare di una rinascita, di una non solo rieducazione, ma proprio spesso e volentieri si parla di educazione. E tantissimi incontri, perché non sono solo oggetti quelli che hai raccolto, ma sono soprattutto storie, testimonianze, esempi, no, di impegno, e i carcerati stessi, gli operatori che con loro lavorano, anche all'interno dei carceri, i dipendenti, credo, nei vari ordini, però insomma c'è veramente una sorta di collaborazione, no? Serve l'impegno di tutto e di tutti. Tra le tante storie che mi hai raccontato c'è una che mi ha colpito particolarmente. Andiamo insieme a Gorgona e vuoi presentarti tu questo carcere, sì, perché è dal 1800 e mi sembra 1860, quindi da tantissimo lì c'è un carcere, tuttora l'isola è, credo, abitata solo dai carcerati. Sì, e da una signora, una unica signora che è nella parte abitativa civile, ma essenzialmente gli abitanti sono i detenuti e le bestie, gli animali, e io di Gorgona l'ho conosciuto sempre in una tappa del viaggio per una triangolazione con un amico comune, Marco Verdone, che è il veterinario di Gorgona, persona simpaticissima che lo scorso anno a Pisa, prima di Ferragosto, mi ha incontrato e mi ha dato dei prodotti fatti a Gorgona, quindi vino, olio, marmellata, miele, formaggi, che ovviamente ce li siamo mangiati subito perché non si potevano portare in giro sul camper. È una realtà estremamente particolare perché è un carcere dove le persone vivono come in dei condomini, ovviamente è un luogo di restrizione, ma nel frattempo è un luogo dove la cura degli animali, ma non solo degli animali, comunque tutto il contesto produce degli effetti estremamente positivi. Il respiro di Gorgona, storie di uomini, animali e omeopatia nell'ultima isola carcere italiana, il libro scritto da Marco Verdone, libreria editrice fiorentina, abbiamo pubblicato il link con la copertina e la presentazione del libro, e Marco è qua con noi. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Buonasera a te. Qui c'è Paolo, appunto, che vi conoscete. Sì, ciao Paolo. Ciao Marco. Ciao. Marco, tu sei di professione, fai il veterinario e dall'89, se non erro, fai il veterinario sull'isola. Sì, sì, sono ormai volati più di 20 anni che io ho passato fondamentalmente viaggiando tra la terraferma e questa piccola isola che, come diceva Paolo, è una delle realtà singolari del panorama detentivo italiano, forse quella per le sue caratteristiche è rimasta unica, ma non solo in Italia. È l'isola più a nord dell'arcipelago toscano, la più piccola, fa parte del parco nazionale dell'arcipelago toscano e, appunto, come dicevi, dal 1869 è una casa di reclusione ad indirizzo agrozootecnico, dove i detenuti lavorano fondamentalmente con la terra, con gli animali, ma poi nel corso dei decenni hanno sviluppato tantissime altre attività, tanto che ormai è una comunità dove praticamente c'è un po' di tutto. Mine vaganti. Conosco un posto dove puoi tornare. Conosco un cuore dove attraccare. Se chiamo forte potrai sentire. Se credi agli occhi potrai. Marco Verdone, veterinario, dal 1989 sull'isola carceraria di Gorgone, e ha scelto questa canzone, l'assenza di Fiorella Mannoia, la scelta perché ci ha detto, appunto, preparando l'intervista, che era forse il testo migliore per raccontare l'esperienza vissuta in tutti questi anni, è vero Marco? Sì, L'assenza di Mannoia, a parte che è una canzone bellissima, ma sì, incarna un po' lo spirito del carcere, cioè la mancanza, l'assenza poi di libertà, di affettività, di relazioni, di contatti, cosa che devo dire in Gorgona tutto questo un pochettino più attenuato, perché Gorgona, pur essendo un'isola, quindi con tutti i problemi logistici di distanza, di separazione dalla terraferma, il problema del mare, il maltempo, l'isolamento che spesso ci investe senza poter dire nulla, però in realtà è un'isola molto frequentata, molto visitata, molto viva, molto interattiva col mondo esterno. Quindi l'assenza in questo luogo si sente un pochino meno. E poi c'è questo strano contrasto, e lì ci sono persone che hanno infranto la legge. Tu col tuo lavoro, ma non solo, con la scelta di questi allevamenti, con la scelta di lavorare con gli animali, si segue la legge della natura, no? Quindi si utilizza la legge della natura per far respirare il sapore di quella legge infranta ai detenuti? Sì, questo è un po' il nostro sogno, la nostra utopia, ma anche una cosa in cui, nella quale io credo fermamente, perché frequentando da vicino Gorgona con tutta la sua natura straordinaria, travolgente, soprattutto con la presenza degli animali allevati in un modo che sia il più aderente possibile alle leggi di natura, tutto questo lo sperimentiamo. Cioè la nostra idea è che frequentare da vicino, lavorare con gli animali che sono insomma i portavoce sinceri, spontanei delle leggi di natura, possa aiutare tutti noi, sia chi è stato giudicato o chi invece è lì per altri motivi, a riavvicinarci alle leggi fondamentali di natura, che sono poi in qualche modo l'anticamera delle leggi della convivenza civile. Per cui frequentare gli animali vuol dire anche capire che se noi rispettiamo determinate leggi, la vita e la convivenza scorre, respira in un modo più giusto, più equo, e quindi la presenza degli animali è fondamentale anche per questo, oltre che per altri mille motivi. E tra l'altro so che stai o state stilando una sorta di carta dei diritti degli animali. Sì, questa è l'ultima evoluzione di questo percorso che ci ha portato a conoscere gli animali, ad ammirarli, ad imparare da loro, a soffrire con loro, e abbiamo capito che gli animali di Gorgona producono delle cose materiali, degli alimenti nella fattispecie spettacolari come latte, formaggio, ricotta, eccetera eccetera. Abbiamo ritenuto di interrogarci anche su un'altra frontiera etica, cioè come possiamo fare in modo da garantire il più possibile che vengano rispettati i diritti di questi esseri viventi che come noi desiderano semplicemente vivere e non soffrire. Quale luogo migliore come un carcere, in cui appunto c'è l'assenza della libertà, la privazione della libertà, interrogarsi sui diritti fondamentali e cercare di affrontare una questione, la questione animale, che è una questione complessa, spinosa, piena di contraddizioni, forse insuperabile. E tutti questi ragionamenti li fate con i carcerati stessi? Li facciamo con i detenuti, li facciamo con gli operatori, con i miei colleghi, con gli agenti di polizia penitenziaria, con gli amministratori, un po' con tutte le persone che in qualche modo interagiscono con questo mondo. Perché riteniamo che Gorgona come un carcere possa essere il luogo ideale per parlare di questi argomenti, o comunque testimoniare che ci stiamo pensando, che gli animali li riteniamo importanti solo per il fatto di esserci, in quanto esseri viventi portatori di un principio vitale, oltre a rappresentare altre cose fondamentali per un carcere, come degli educatori naturali, come dei maestri naturali, come esseri viventi con i quali condividere pene e sofferenze e gioie, che non ti giudicano, che sono lì disponibili anche a ricevere un abbraccio, una carezza, e vi assicuro che in un carcere a volte c'è bisogno anche di loro. Lo stesso carcere ha ospitato la giornata mondiale dell'omeopatia, perché tu sei veterinario omeopata e porti avanti questa pratica lì, a Gorgona, è tutto un altro filone, però credo anche questa sia una bella sfida. Questo è un filone che si interseca in modo molto stretto con il cammino di conoscenza e di rispetto che abbiamo fatto con gli animali. Da oltre 15 anni ho introdotto introdotto l'utilizzo e la pratica e la visione della medicina omeopatica in Gorgona. Quindi abbiamo, curiamo tutti gli animali prevalentemente con la medicina omeopatica, che è una medicina non violenta, non tossica, non soppressiva, che non lascia residui nell'ambiente, che costa poco. Insomma, qualcuno dice anche che non funziona. Qualcuno dice che non funziona, ma credo che, che questo venga detto da chi non la conosce. Okay, chi conosce l'omeopatia sa di cosa stiamo parlando. La cosa interessante cos'è stata? È stata che negli anni c'è stata una contaminazione culturale con i nostri colleghi medici di Gorgona, per cui diversi medici di Gorgona sono diventati omeopati, e oggi possiamo dire che ai detenuti di Gorgona è offerta la possibilità di essere curati anche con la medicina complementare, quindi con la medicina omeopatica, fitoterapia, acupuntura, eccetera. Insomma, tutte le volte che si dà la possibilità di scegliere, credo che sia un bel segno di libertà. Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? Vedo. Sì, che mi ha curato Marco con l'omeopatia anche recentemente in occasione in quanto animale o in quanto animale. No, sono fra gli animali che Marco l'omeopatia supera la barriera di specie. Il messaggio stesso. Marco, complimenti davvero per la tua attività che va al di là della professionalità da veterinario, perché insomma credo sia impossibile in una situazione come quella del carcere di Gorgona scindere le cose, no? Non è limitativo dire che alla fine è davvero una grande famiglia, perché ne fate tutte parti e c'è bisogno di una grande comunità dove siamo tutti in qualche modo coinvolti, tutti e dove la relazione è al centro, tra i detenuti, tra gli animali, tra le stesse forze dell'ordine, tra il direttore, con te e con gli altri operatori che lì, gli esterni che lì vanno a lavorare. Consiglio davvero il libro di Marco per conoscere meglio lui e la sua attività. È un libro pubblicato qualche anno fa, però credo sia ancora attualissimo, Il respiro di Gorgona, libreria editrice fiorentina. Grazie davvero Marco e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Ciao Marco. Ciao. Insomma, è una bella storia che ha trovato Paolo nel suo gel tour, nel suo viaggio infinito, un viaggio che si sa bene quando è partito, non si sa quando finirà. Ci sono tantissimi progetti, ma ne parleremo poi nel corso della puntata. Continuiamo invece continuiamo, Paolo, a fare questo tour. Altre cose che hai trovato scendendo per l'Italia carceraria? Oltre al libro di Marco, che è sul camper ovviamente, perché l'altro è stato esaurito a Festa Ambiente recentemente, abbiamo trovato la sartoria che c'è a Vigevano come ultima cosa importante, se vogliamo, da segnalare, perché è una nuova realtà, poi magari se ne parla. E a Roma una cooperativa che fa serigrafia e quindi non solo magliette ma anche opere d'arte con immagini del cinema. La pelletteria che viene portata avanti dall'Artemisia, che è un consorzio di cooperative, occupa 87 persone svantaggiate, è il caso di dirlo, perché comunque è una bellissima realtà. E Artù, che fa design con oggetti di vario genere e tipo. Peraltro tutti questi oggetti e queste cose sono presenti sul sito di Recuperiamoci quando vengono recuperati, incontrati, ma soprattutto sul sito della giustizia da dicembre del Ministero della Giustizia. Da dicembre del 2010 c'è una sulla sinistra del sito c'è proprio una vetrina di prodotti del carcere. La segnalo perché lì sopra ci sono tutte le realtà che producono. Anche lì non tutte, perché spesso sono piccole realtà, però diciamo è una vetrina importante perché rappresenta quello che c'è di produttivo, di lavorativo e se vogliamo anche di remunerativo, che deve crescere, perché è un'economia, dopo un anno e mezzo di viaggio posso dire che è un'economia molto fragile che va diciamo sostenuta, ma non per la pietà che richiede, ma per l'importanza del lavoro, che è importante per tutti noi, ancor di più all'interno di luoghi di detenzione previsto dalla legge del 75. E poi comunque sono oggetti di qualità. Volevo continuare a scendere? Sì, proprio un'ultima cosa, poi ci fermiamo, che è il momento del traffico, poi torniamo. Valle del Buon Amico a Locri, che produce una razza di suini in estinzione, e formaggi, oli e frutti di bosco. E poi andiamo a Trani, a Siracusa, ma dopo. Ok, recuperiamoci.org, oppure ci trovate su Facebook Mine Vaganti di Radio 24 per i vostri messaggi e le vostre richieste. 349 238 6666. Mine Vaganti. Eccoci qua ancora a Mine Vaganti. La mina vagante di oggi in studio è Paolo Massenzi. Decine di migliaia di chilometri percorsi su e giù per l'Italia, bussando alle carceri, chiedendo voi cosa producete all'interno delle vostre celle, no? E ci sono cooperative che lavorano dentro, cooperative che lavorano fuori, poi lì c'è tutto un mondo che adesso non è, è anche complicato da capire, però opportunità e possibilità ci sono, e questo ci piace, e ci piace la tua testimonianza, perché sei nata a scovarle queste cose. Continuiamo quindi il viaggio, perché alla fine credo che sia la parte più significativa, attivano a vedere quello che producono. Assolutamente sì. E a Trani ci sono i taralli, è un progetto sempre dell'amministrazione penitenziaria, c'è cioè la produzione di taralli. Buoni? Ottimi. Gli ho chiesto perché so che poi lui assaggia tutto, giustamente. È un viaggio anche enogastronomico, quindi tarallucci e vino va da sé, peraltro, e che è anche un prodotto, della sartoria di Lecce, il porta tarallucci e vino. Ah, certo, così fanno una joint venture e funziona, esatto. Ok. Dopodiché a Sant'Angelo dei Lombardi, non ci sono ancora stato, ma producono vino, miele, c'è il greco di Tufo, il fiano di Avellino, insomma, quindi c'è una bella produzione enologica. Hanno vinto anche un premio recentemente per la produzione di vino. A Siracusa c'è la mandorla in assoluto, quindi latte di mandorle. La cooperativa Arcolaio produce tutto ciò che è mandorla, quindi latte di mandorle, biscotti, liquori e quant'altro. Un bellissimo laboratorio e una direttrice estremamente disponibile. Ecco, lì ho bussato e in mezz'ora mi ha fatto entrare in visita nei laboratori che sono nel reparto detenzione. Lì ho veramente tremato, perché ho detto: forse se si rendono conto non mi fanno uscire. La volta buona. E l'ultima cosa, le barche a vela fatte a Palermo per i disabili. Ho incontrato l'anno scorso a Palermo, c'è una cooperativa azzurra che ho incontrato lo scorso anno il 28 di agosto, e hanno un progetto, producono ormai da 2 anni una barca a vela equipaggiata specificamente per i disabili, e la quale barca a vela è stata già portata in Toscana e che sta cominciando ovviamente come progetto a prendere la giusta via di natura imprenditoriale. Insomma, anche delle eccellenze, no, che nascono all'interno dei carceri. E il camper ti ha mai tradito in questo lungo viaggio? Il camper non tradisce mai. No, okay. Il camper, innanzitutto, così come le persone che lo assistono quando mi vedono mi dicono: hai deciso di cambiare mezzo, vero? E io rispondo: no, anzi, bisogna migliorare quello che c'è. No, il camper, come tutte quante le cose prive di elettronica, non tradisce. Ok, altrimenti te la propongo io una giusta alternativa. Siamo tutti qui sull'autobus, seduti ed assonnati, corron con poca voglia gli ultimi arrivati. Ognuno prende posto in fondo al suo cantone, si chiude in un silenzio che è fatto di oppressione, e gli operai sull'autobus son pronti per partire. Le donne, i vecchi e i giovani son stanchi di aspettare. Si chiama Paolo Merlini e appunto l'etichetta, la qualifica da mine vaganti se l'è guadagnata sul campo. È un imprenditore, vive e lavora a San Benedetto del Tronto ed è un esperto di vie traverso, ovvero l'arte di spostarsi utilizzando mezzi pubblici, in particolare gli autobus, itinerari che sperimenta, prova, e ultimamente scrive anche sul sito Il Cambiamento, dove tiene una rubrica intitolata Viaggiare al tempo della decrescita felice. Ciao Paolo, grazie per essere qua con noi. Buonasera Federico e buonasera agli ascoltatori. Ma chi era? Pierangelo Bertoli che mi ha introdotto? Sì, mi sembrava la scelta più adatta, no? Grazie, che emozione. Una gioia doppia, insomma, essere con te in diretta e poi essere così introdotto da la bella voce di Pierangelo Bertoli. Paolo, tu e l'autobus, quando e perché questo incontro? Ma da ragazzo ho sempre amato il turismo, i viaggi, ma in particolar modo il microturismo, quel, quel turismo che si può fare dietro l'angolo di casa, ecco, andare in giro, inoltrarsi nel profondo della provincia italiana alla ricerca delle tante bellezze, delle tante peculiarità della nostra nazione. Quindi ho viaggiato molto in bicicletta, a piedi e poi gioco forza anche in autobus. Mm-hmm. E piano piano tutte queste informazioni raccolte sulle centinaia di autolinee regionali, locali, insomma italiane, il ginepraio delle autolinee italiane, sono andate sedimentando e sono diventato il punto di riferimento per i miei amici. Per andare a Norcia, come faccio? Per andare. Perché in effetti è vero, no? Cioè, sai, è un'ovvietà, però come tutte le ovvietà, poi ti devi fermare un attimo per rifletterci. Cioè, tutti i paesini, cioè tutta la provincia, almeno dagli autobus di linea, insomma, è coperta. Poi ci sono posti sperduti dove non arriva neanche l'autobus di linea, però veramente si può raggiungere quasi ogni luogo d'Italia sfruttando gli autobus locali. Sì, io oramai sono circa 10 anni che sistematicamente viaggio in Italia con i mezzi pubblici e devo dire che, ecco, qualche volta 5-6 chilometri a piedi magari me li sono dovuti pure fare per raggiungere il paesino di 30 anime che sta sul cucuzzolo della montagna, quello sì, mi è capitato. Mm-hmm. Però cioè, bisogna, forse ecco, la notizia è questa, che la rete, effettivamente la rete delle linee di autobus in Italia è veramente fitta, capillare, e quindi spesso e volentieri potrebbe essere un piacere lasciare a casa l'automobile privata e optare per la mobilità pubblica. Certo. Questo è un po' il messaggio finale dei miei racconti. Mm-hmm. Il cambiamento.it è questo portale che parla appunto di possibili altri scenari, e tu tieni questa bella rubrica. L'ultimo articolo che hai scritto è l'alta Valle Stura con i bus delati. Perché è vero che il viaggiare in autobus è un viaggiare lento, particolare, paziente, e poi c'è questo secondo aspetto secondario ma molto curioso, che sono tutte le sigle che accompagnano i tuoi viaggi, perché ne avrai incontrate di qualsiasi tipo, credo. Ma sì, ATC, Etruria Mobilità, ARPA, GTT, Sita Campania, SAF, APT Gorizia, insomma ce n'è quante ne vuoi. Ma lì in Valle Stura scusa, ma adesso la domanda è d'obbligo, fai sempre il biglietto? Sempre, okay. sempre. Ma poi ecco, c'è da dire che il biglietto spesso e volentieri cos'è che frena l'utente? Il non sapere dove acquistare il biglietto. Quindi una delle cose che mi impongo nei miei racconti, insomma nel raccontare i miei viaggi, è quello di dire: il biglietto l'ho comprato alla tabaccheria lì nell'angolo tal dei tali. Sì, perché questo è il primo ostacolo. Il secondo a volte è capire gli orari, che insomma si parte, ecco, diamo qualche, cioè, cerchiamo di orientare l'ascoltatore della domenica pomeriggio. Quando decidiamo di andare in un paese, facciamo conto, ecco, prendiamo l'esempio della provincia di Cuneo, no? Sì. Voglio andare ad Argentera. Ecco. Argentera è in provincia di Cuneo, è sulla statale 21 della Maddalena e a pochi chilometri dal Colle della Maddalena, frontiera con la Francia, ormai in disuso. È un posto particolare, bellissimo, Alta Valle Stura. Ecco, io non ho fatto altro che cercare Argentera piuttosto che Vinadio o De Monte, cioè dei paesi lungo questa strada, e cercare su internet appunto il nome del paese dove volevo andare e poi inserire a fianco come arrivare. E quindi tu sai bene che insomma qualsiasi motore di ricerca ti sciorina una serie di siti, e da lì piano piano si capisce che c'è un'autolinea locale, un servizio pubblico che collega il capoluogo di provincia Cuneo con l'Alta Valle Stura. Ecco, e se uno non fosse abituato a utilizzare internet, qual è? C'è una seconda possibilità? Si telefona? Telefona in fondo dei conti, nel capoluogo di provincia c'è sempre un ufficio turistico. Ok, quindi si può partire da telefona lì. Io voglio andare con l'autobus ad Argentera. Abbiamo fatto pubblicità ad Argentera, però è un paese che pochi conoscono magari. Paolo, al di là del discorso dell'inquinamento, al discorso del traffico, che sono tutte cose validissime, e col tuo concetto, non solo tuo, ma col movimento della decrescita felice, ovviamente vanno a braccetto, però ci sono altre caratteristiche di questo viaggiare in autobus, peculiarità, cose che ti fanno godere, cioè quali sono le occasioni che ti offre il viaggiare in autobus? Innanzitutto, insomma, la gente che frequenta gli autobus, insomma, sono persone spettacolose, sono gli indigeni, no? Perché io sono di fuori zona, quindi sempre, regolarmente vengo accolto benissimo dai miei compagni di viaggio, occasionali compagni di viaggio, che si prodigano in informazioni della strada che stiamo percorrendo, perché poi, ecco, una particolarità è che gli autobus di linea locali percorrono le strade statali, quindi le vecchie strade statali che oramai non vediamo più, perché tutti quanti percorriamo le strade a scorrimento veloci piuttosto che le autostrade, no? In automobile, e quindi, ecco, ci si riappropria del territorio anche grazie ai locali che ti raccontano le storie, gli accenti, i dialetti, le parole in dialetti, la Romagna, i romagnoli sono sempre molto molto aperti, quindi, ecco, varie tipologie, sfumature di romagnolo che si imparano andando in autobus lungo la Valmarecchia, per dirne una. Fantastico, è veramente un viaggiare diverso. So che stai, a parte che molti di questi itinerari si possono trovare sul sito ilcambiamento.it, altri ancora digitando su Google Paolo Merlini, comunque tutti quelli che avevi scritto per il portale terranauta.it sono ancora online. So che stai lavorando a un libro per raccogliere tutti insieme, insomma l'attività è tanta e ricca. La prossima tappa, la prossima meta del tuo viaggiare, verso dove sarai diretto? La prossima è un autobus da vagabondi del Dharma, un autobus di linea da vagabondi del Dharma, perché è la Sita Puglia, sì, che offre nel suo orario questo bellissimo autobus che fa da Foggia a Campobasso, nell'ultima parte, la più meridionale, della Statale 17, la famosa Statale 17, che poi è stata costruita lungo il tracciato del Tratturo Magno, perché sì, insomma, si arriva a Foggia passando per Lucera, quindi il tavoliere delle Puglie, per cui, ecco, pensiamo alla transumanza, e quindi è una parte che, diciamo, io che sono marchigiano magari non ho mai percorso. La durata di questa corsa, ci sono due corse al giorno, sì, la durata di questa corsa è di circa 1 ora e 40. Perfetto. È roba bella. Ci teniamo questa immagine, una transumanza e tu dietro in autobus, è la cartolina di questo viaggio per salutare Paolo Merlini e i suoi viaggi nella decrescita felice, il suo viaggiare diverso, il suo viaggiare attraverso le vie traverse. Ciao Paolo, grazie per essere stato qua con noi. Al momento del GR ci fermiamo, poi ancora qua con Mine Vaganti. Mine vaganti. Tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente, tu che ti lamenti perché ti hanno imbrogliato, allora adesso senti, tu andrai in prigione, in prigione, in prigione, proprio tu in prigione, perché ti servo da lezione. Ancora buona domenica da Federico Taddia, questo è sempre Mine Vaganti, ancora un'ora insieme, sarà un'ora intensa, andremo a correre con Alex Bellini, la 64esima tappa della sua Los Angeles, New York, entreremo nella cronaca locale, parleremo in diretta con l'italiano più veloce al mondo e scoprirete chi è, ma intanto rimaniamo all'interno delle carceri italiane, lo facciamo con Paolo Massenzi qua con me in studio. Recuperiamoci.org è il suo portale, il punto di riferimento di questa sua attività, che è partita da lontano, neanche tanto perché è da un annetto che sei in giro, ma ha già percorso tanti chilometri. In questi tanti chilometri col suo camper ha raccolto oggetti prodotti all'interno delle carceri, ma ha raccolto anche testimonianze, anche persone, perché in tanti comunque ti stanno aiutando, Paolo, si sono avvicinati a questa tua attività, che è nata un po' come un censimento, però adesso sta diventando qualcos'altro, perché appunto prima hai censito, hai raccolto, hai visto il tuo camper davvero è diventato una sorta di vetrina, no? Dove arrivavi nelle piazze, nelle fiere, nelle feste, nei luoghi più strani e esponevi, dicevi, queste sono le cose prodotte dai carceri italiani. Tutto ciò cosa diventerà, qual è il tuo sogno? qual è la tua utopia o qual è invece ciò che si sta realizzando? Oppure l'incubo dei prossimi direttori che andremo ad incontrare. Non ci avevo pensato, esatto. Beh, allora, dunque, continua quello che abbiamo fatto fino adesso, che significa piazze, fiere, mostre. Quindi poi sul sito ci sono tutte quante le date, perché saremo a Sondrio il 23 di settembre, saremo a Milano al Christmas Day il 15 di ottobre. Quindi comunque, insomma, continua la cosiddetta parte, fase espositiva, quindi, ma soprattutto continua la parte di raccolta, perché ancora la settimana scorsa abbiamo incontrato nuove cooperative che lavorano in carcere e fuori dal carcere, che comunque c'è. E le prossime tappe sono logiche, nel senso che sono delle cosiddette tappe logiche, vale a dire apertura di una base, perché a questo punto il camper gira, ma c'è bisogno di un punto dove, come dire, coordinare le operazioni a terra. Sì. quindi a Prato adesso stiamo proprio facendo il trasloco, in questi giorni apriremo a settembre un luogo definito Cantieri del Recupero, dove vengono gli amici, appunto, perché nelle varie fiere, nei vari incontri Facebook piuttosto che il sito, arrivano persone che mettono a disposizione un po' del loro tempo. Quindi spesso mi scrivono persone che vogliono fare volontariato, allora noi le indirizziamo. Quindi l'incontro dell'agriturismo di Gattinara e la donna che gestisce questo agriturismo ha generato, tra l'altro, delle persone che cominceranno a entrare in carcere per fare volontariato. Quindi noi siamo una rete, Recuperiamoci vuole essere una rete, gli amici di Recuperiamoci sono persone che mettono a disposizione del tempo, delle professionalità, principalmente per fare prototipi di cose da far fare in carcere. Questa è l'evoluzione del nostro pensiero e anche della nostra mappatura. Ho visto delle lampade stupende realizzate con i cestelli delle lavatrici, che era un prototipo, forse a fare la cosa giusta l'hai esposto, se non ricordo male. Da sempre, però c'è l'evoluzione, nel senso che a Terra Futura 2010 abbiamo preso dei cesti grezzi messi dentro delle lampade da officina comprate all'ultimo momento. Dopodiché a fare la cosa giusta abbiamo presentato il settimino fatto con i cesti delle lavatrici e l'evoluzione della lampada, perché è stata trattata da un illuminotecnico che peraltro è un professionista e ci dà delle indicazioni di natura illuminotecnica. Quindi io posso avere le idee o rubare le idee agli amici, metterle insieme, poi però diamo in pasto sempre ad altri amici professionisti. Quindi Carla Martin è una eco designer, vive qui a Milano e ha preparato una lampada che si chiama Babel ed è fatta solamente con CD usati, CD non recuperabili. Okay, quindi insomma questi sono degli esempi. E questa è la creatività, con poi gli avanzi di galera, che è un'altra, so che anche questa cosa, insomma, ci stai lavorando. Salutiamoci così, Paolo, con un ultimo aneddoto. Perché volevi uscire da un carcere di massima sicurezza con tre coperte strappate, nascoste sotto braccio? Cioè, sei nato a rubare all'interno di un carcere? No, assolutamente, ma si è avvicendato un periodo di guardia, sì? Un turno di guardia, e chi ci ha visto entrare non ci ha visto uscire. Eravamo a colloquio con la direttrice, gentilissima, peraltro direttrici di carcere donne, un punto a favore. Okay. E ci ha dato delle coperte cosiddette del fuoriuso, perché io volevo farne delle borse e quindi gli ho chiesto fisicamente delle coperte e dei coprimaterasso. Tre vecchie coperte, arriviamo alla blockhouse per uscire e il nuovo turno di guardia è andato un pochino, come dire, in confusione, e nel frattempo chi era con me, che è con Recuperiamoci, ha generato ulteriore confusione, perché ha presentato un tesserino delle forze armate, essendo lui un uomo delle forze armate, quindi un caos che non finisce più. E quindi è anche divertente fare questa storia. Anche questa, recuperiamoci.org è il sito, trovate tutte le altre informazioni anche sulle nostre pagine di Facebook Mine Vaganti di Radio 24. Grazie Paolo e buon viaggio. Grazie a voi, a presto. Noi ora entriamo nella cronaca locale che andiamo a commentare insieme a Beppe Braida. Insurrezione, no, si tratta di insurrezione. Allora, che ci no, fare qui nel no, mio ma ragazzi, ma no! Allora scusa, no, Braida. No, guardi, no, non faccia. No, ascolta, non la faccia con no, questo scusa, mio atteggiamento da bolscevico. Io... non l'accetto io, Beppe, certo. Ma quale bolscevico sarai tu? No, ma che sei scemo? Io sono molto bravo a dare una notizia. Quelli là sono i miei occhiali, questi sono i miei occhiali, questo qua, il mio pennarello, è tutta roba mia, capito? Io sto facendo. Quelli lì sono i miei capelli, sono. Quelli lì sono i miei capelli, per piacere. Guarda, mi faccia Beppe, leggere. Scusa, dammi la cortesia. Io sto facendo un direttore, devi incasinare pure a me. Sto facendo un lavoro serio. Queste cazzate le fai a striscia. No, per cortesia, per cortesia. Allora, lei che è un rivoluzionario. Ma porca la miseria! Lasci stare questi fogli! Io devo leggere il telegiornale. Allora, è ufficiale il TG4 telegiornale troppo democratico e quindi comunista, avrà un nuovo direttore, cioè io. La notizia è stata data stanotte dalla Stella Cometa, che a suo tempo aveva già annunciato la nascita del bambino di Arcore. E questa è una mitica incursione di Beppe Braida negli studi delle TG4. Ciao Beppe. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, grazie, che bei tempi. Come finì? Cioè, ti menò poi fuori onda? No, ma siamo rimasti in buoni rapporti. Sul momento avrebbe voluto coltellarmi, ma poi Emilio è una persona di grande spirito. Ho capito. Allora Beppe, con te oggi commenteremo la cronaca locale. Tra l'altro tu in questo momento ti trovi in provincia, se non erro sei in Trentino, perché questa io sera... Io sono nel Trentino, dove questa sera farò uno spettacolo e quindi darò il meglio della mia deficienza senile. Certo, Fiera di Primiero, ci sono le selezioni, se non erro, di Miss Italia, le selezioni del Trentino Alto Adige. Dice, quindi sei nato lì perché c'erano esatto, le miss. E stasera attenzione, perché colei che risulterà la vincitrice parteciperà poi a Miss Italia. Ok, quindi sei già nella parte, vedo. Bravo Beppe. Esatto. Mine vaganti. Eccoci qua con Mine Vaganti e la cronaca locale. Abbiamo come sempre selezionato le notizie più divertenti, simpatiche, un po' divergenti, che abbiamo estrapolato dalla cronaca locale italiana e le commentiamo insieme a Beppe Braida. Beppe, partiamo male, perché già la prima notizia è molto particolare. Corriere del Veneto e anche la nuova di Venezia. Sei lì Beppe? Sono qua, ecco, scusami, dove sei? Dentro la lavatrice, ti abbiamo sentito. Allora, il titolo: viaggia con la bara sul sedile, così punisco un politico. Un sogno e un voto contro l'ex sindaco è stato avvistato sulla 4 dagli automobilisti, segnalato sulla stradale. È un 65enne di Marcon che ha chiesto aiuto alla Madonna e pare che la Madonna in sogno gli abbia detto: devi fare 1000 viaggi con la bara nella macchina verso 1000 chiese del Veneto. Sai cosa mi viene in mente sentendo questa notizia? Che se, visto il periodo insomma di crisi, no, di questi tagli che abbiamo, dove a pagare poi siamo sempre solamente noi, sì, che se dovessimo fare il funerale ai tutti i politici che ci sono in circolazione, sicuramente le spese sarebbero anche in questo caso a carico nostro. Cioè questa cosa mi verrebbe, per cui io lui lo eleggo come paladino di tutti coloro che in questo momento farebbero volentieri molti funerali a molti politici. Ok, però appunto non inserendo le spese tra i benefit, le spese. Beh, no, i tagli è solo opera nostra, loro lo sai che non si toccano. Insomma. Esatto. Tra l'altro diamo un aggiornamento di servizio, perché sempre ieri la nuova di Venezia diceva: riparte oggi l'uomo con la bara. Cioè, se vedete questo tipo girare in macchina con la bara, non spaventatevi, perché deve fare 1000 viaggi. Dopo lacrime e sangue ci mancava di vedere questo con la bara, mi sembra giusto. Esatto. L'Alto Adige, siamo a Merano. Il titolo: marijuana troppo fresca per costituire reato, le 45 piante sequestrate non erano ancora mature per contenere il principio attivo, quindi l'agricoltore appunto è uscito dagli arresti domiciliari. Guarda, in questo caso ti devo dire questa cosa qua, io sono un pessimo cuoco, sì, e di recente sono andato al mercato e ho scoperto il prezzo del basilico, che è aumentato, cioè è diventato come una sorta di oro nero, no? Però stiamo parlando di basilico, per cui io non sono molto informato sui prezzi della marijuana e sull'eventuale distribuzione, però posso dirti, senza ombra di dubbio che diventerò uno spacciatore di basilico, visto quello che mi costa al mercato. Perfetto, e il basilico fresco è un valore aggiunto, quindi lì sì, avresti solo da guadagnarci. Non ho ancora provato a fumarlo, ma mi sono ripromesso di farlo a breve, insomma. Ok, Corriere del Mezzogiorno invece, siamo a Messina, parrucche e seno finto, banditi in tailleur tentano colpo in banca ma vengono scoperti. Ecco, questo devo dire che in confronto a questi due imbecilli, Totò e Peppino erano dei mostri del crimine, perché questi due, più che definirli imbecilli, non mi viene in mente nient'altro. Okay. Allora, te ne presento un altro di imbecille, l'ho trovato leggendo Il Piccolo, perché la cronaca locale ci porta anche oltre confine, siamo a Spalato, gareggia a nuoto contro il traghetto sul quale era salito, multa di 150 euro. Cioè lui era sul traghetto, poi all'arrivo del porto si è buttato perché voleva arrivare prima lui del traghetto, e invece... Guarda Federico, io non credo che la notizia sia tanto questa folle sfida che questo pazzo ha intentato nei confronti di un traghetto. La domanda è che tutti ci poniamo è questa, cioè da che istituto di igiene mentale è scappato, perché uno così non può circolare liberamente in una società civile. Quindi la notizia, lui potrebbe gareggiare con un traghetto, con una moto, con un camion, tutto quello che volete. Il problema è che bisogna tenerlo recluso, questo è il problema. Tra l'altro c'è stato un grande applauso quando è arrivato, perché ha veramente dato spettacolo. Ma probabilmente erano gli infermieri che lo cercavano. Mentre l'arena, anche questo come titolo è fantastico, da Shanghai a Parigi in sidecar, multati a Verona. Due francesi e due cinesi stavano ultimando il percorso lungo 17.000 chilometri, ma a poco più di 1.000 dalla meta sono incappati in un inconveniente: guida senza casco. Questa è la multa che si sono beccati a Verona. Guarda, lì è un peccato che non gli abbiano fatto anche l'autovelox, così gli rimaneva una bella foto ricordo di questa gita, e sicuramente si sarebbero ricordati dell'Italia, ma indubbiamente di Verona. È un peccato non avergli fatto anche una foto. La nuova invece, credo, di Ferrara. Senti questo perché è fantastico come titolo: signora di 60 anni deruba trentenne nigeriano, ha preso il portafoglio lasciato su un bancone ma è stata identificata. Beh, questa è un mito. Io vorrei avere una signora di 60 anni, vorrei avere una nonna così. Questa è davvero una sorta di Kunta Kinte che scioglie le catene, e c'è una rivalsa magnifica. Io voglio adottare una nonna così. Okay. L'ultima notizia, insomma, già forse il titolo è sufficiente, ma voglio avere il tuo commento, Beppe. Fa troppo caldo, il camionista porta la lucciola nel carro frigo, multato. Nei guai un 65enne che aveva abbordato una prostituta e appunto usava il proprio carro frigo per intrattenersi con lei. E guarda, meno male che non l'ha portata nel carro funebre del primo tipo, quello che si sposta con la bara, no? Perché altrimenti avrebbe potuto fare una bella coppia insieme. Vedi che ce n'è di gente originale in Italia. Sì. E poi dicono che non siamo creativi. Non è vero. Ma infatti, ma la cronaca locale per voi comici, guarda che è fonte quotidiana di spunti, Poi vabbè. Lo so, guarda, è vero, capita di tutto e di più, però queste notizie sono belle, sai perché? Perché alzano la tua autostima. Cioè, più le senti e meno ti senti un imbecille tu. Okay. Sai che è terapeutico, non ci avevo pensato. Grazie Beppe. È terapeutico, figurati. BeppeBride.it è il sito per conoscere tutta la tournée estiva. Ho visto che hai molti appuntamenti in questa lunga estate, quindi sì. Buon per te. Questa sera la fiera di Primiero con Miss Italia, le selezioni del Trentino Alto Adige. Ciao Beppe, buon lavoro, grazie. Ciao Federico, grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao. Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Rimaniamo in tema di cronaca locale, e grazie a Battiato e al suo cinghiale bianco, che è proprio, credo, il termine migliore per andare ad accogliere la prossima notizia. La nuova Sardegna di ieri, sabato 20 agosto, questo è il titolo. Biberon, cinghiale orfano allattato dalle mucche nelle campagne di Nulvi. La madre uccisa in una battuta di caccia, lui si è fatto adottare e ora convive con una mandria. Siamo a Nulvi e con noi c'è Mauro Tedde, collaboratore della Nuova Sardegna e autore dell'articolo. Ciao Mauro. Buonasera Federico, buonasera agli ascoltatori. Allora, già l'attacco del tuo pezzo è inquietante, gli danno la caccia da settimane, sperano di fulminarlo quando esce allo scoperto, ma lui sinora non si è fatto sorprendere. Chi gli fa la posta nascosto per ore nella macchia mediterranea non usa però armi da fuoco, ma macchine fotografiche. Cosa sta succedendo lì a Nulvi? Beh, io stesso ho dovuto fare la posta per ore sotto il sole, cercando di stare controvento, perché nonostante tutto ha sempre l'istinto dell'animale selvatico e se ne sta appena sente la presenza dell'uomo e naturalmente non si mette a fare queste sue cosette. Niente, è una piccola storia dei nostri compagni di viaggio, no? Che noi continuiamo a chiamare bestie, bestiame, però a volte riescono a dare degli esempi, diciamo così, di umanità, di solidarietà nei confronti degli animali che non hanno niente a che vedere, degli esempi che forse sono anche molto migliori di quelli dell'uomo. Insomma, questo cinghiale è rimasto orfano dopo una battuta di caccia quest'inverno, probabilmente l'intera cucciolata è andata male, sono sicuramente morti. Lui invece ha tirato fuori il suo istinto di sopravvivenza, è andato a cercare il latte dove c'era, e lì vicino c'è una mandria di mucche che stanno più che altro allo stato brado, non sono certo dentro il capannone. Sì. E quindi probabilmente c'era stato, così mi hanno riferito i proprietari della mandria, un parto recente, e ha approfittato delle mammelle gonfie della mamma, che io ho chiamato Lola, perché poi questa è diventata, adesso che lui è un grosso cinghiale, questo vizietto non lo ha perso, perché adesso deve magari ricorrere alla furbizia, perché prima se la mucca è stata, diciamo così, comprensiva, perché era, alla fine era non so se avete mai visto un cucciolo di cinghiale, non ha per niente l'aspetto un pochettino brutto del cinghiale adulto, veramente un animaletto, un cucciolo con il pelo striato, è una cosa carina. Ma sì, già il termine biberon in effetti è legato a un cinghiale un po' stona, invece tu il cucciolo di cinghiale tenero. Scusa Mauro, perché il veterinario del paese dice appunto non si è mai visto una cosa del genere, la prima volta che c'è questo incontro ravvicinato sicuramente tra le mucche e il cinghiale, quindi c'è curiosità attorno a questo evento. Sì, il veterinario mi ha confermato, e anche una lunga esperienza, di non aver mai sentito una cosa del genere. Io ricordo, nel mondo animale capita, no? Io ricordo proprio 25 anni fa, guarda caso, quando ho iniziato la mia piccola attività di corrispondente per la Nuova Sardegna, era capitato, ero riuscito anche a fotografarlo, un maialetto che ciucciava il latte da una mucca, però pare quello in fattoria sia abbastanza ricorrente. Mentre un coso del genere no, anche perché il cinghiale è un animale assolutamente selvatico, anche se questo sembra ormai che pensi di essere una mucca, perché io l'ho visto, l'ho seguito pascolare, bruccare l'erba insieme alle altre mucche. Ovviamente il lavoro, ormai diventa un furto il latte, perché approfitta delle mucche che si sdraiano al sole dopo la beveratta. Certo, e arriva lui. Come arriva le mucche lui. Sono un po' goffe poi a rialzarsi, non hanno certo, non possono dare un colpo di reni come potrebbe fare un altro animale. E in quel frattempo lui ha già fatto colazione, come ho scritto nel mio pezzo. Allora, il pezzo. E comunque ha creato molta curiosità, perché guarda caso, questo pascolo, su questo pascolo si affaccia un agriturismo, che poi sono i proprietari del bestiame, che ospita, soprattutto adesso in questo periodo d'estate, moltissima gente, e sono lì tutte le mattine, prima e dopo pranzo, con i cannocchiali a sperare di vedere questa cosa, insomma. Allora, Mauro, però non è così facile. No, non è così facile, infatti anche tu hai dovuto fare un lungo appostamento. Allora, l'articolo di Mauro l'abbiamo già pubblicato sulle nostre pagine di Facebook, Mine Vaganti di Radio 24. E Mauro, come sempre, quando intervisto i collaboratori di provincia, chiudo con una domanda. Quando tu hai telefonato al tuo caporedattore e hai detto avrei un pezzo su un cinghiale appunto allattato da una mucca, come ti ha risposto, come ha reagito? Allora, devo dire che è successo proprio qualcosa del genere. E in questo periodo nei nostri piccoli centri ci sono sagre di ogni genere, certo, piccole notizie, feste patronali, e abbiamo difficoltà a far pubblicare tutto sul nostro quotidiano, perché veramente ci sono quotidianamente delle notizie. Questo tant'è che io questo pezzetto l'ho mandato così, ho detto sì, tanto uscirà a settembre quando magari calano questo tipo di notizie. Due secondi dopo averlo inviato mi ha chiamato il caporedattore che rideva, e poi mi ha chiesto anche di ampliarlo e di certo mi ha chiesto anche una foto un pochettino più, perché la foto che sono riuscito a fare purtroppo è molto lontana e non c'è certo il momento in cui lui ci uccellasse dalle mucche. Certo. Però hanno riso moltissimo, ecco, e questo mi fa piacere. Ci crediamo. Corrispondente di paese. Lo so. Grazie a Mauro Ted, collaboratore della Nuova Sardegna. Ciao Mauro, grazie, buon lavoro. Ciao, arrivederci, ciao. Buona serata. Mine vaganti. Adesso forse Flash non è proprio il personaggio giusto, però dà l'idea del movimento, dà l'idea della velocità. Ciao Fabio, benvenuta a Mine Vaganti. Sì, ciao, buonasera a tutti. Fabio, prima di raccontare la tua storia ci devi dire subito cosa si prova ad andare ai 494 km orari. Beh, succede tutto molto velocemente è piuttosto emozionante. Do il benvenuto a Fabio Montani, l'uomo jet. Lui è un imprenditore di 52 anni, lavora in una multinazionale dell'acciaio, ma ha un soprannome che è Gas Gas. Credo abbia la scritta Mina Vagante sul casco, me lo confermi Fabio? Sì, è vero, sono un vecchio Mina Vagante anch'io. Ed ha appena avuto un successo clamoroso, sei l'uomo razzo, sei il primo italiano che ha vinto un primato nel lago salato di Bonneville, se non erro, è quello il luogo, giusto? Sì, il grande lago salato di Bonneville, ed è la prima macchina, è la più veloce macchina italiana nella storia, e in un paese dalle tradizioni motoristiche come il nostro è una bella soddisfazione. Sei il primo italiano, sei la macchina più veloce, anche se si può definire macchina, cioè cosa hai costruito? Eri a bordo di che cosa? Di un razzo praticamente? No, bisogna fare una distinzione tra i veicoli a razzo che hanno passato il muro del suono e hanno fatto più di 1200 km orari, ma vengono definiti veicoli terrestri e non automobili. Un'automobile deve avere un motore possibilmente a pistoni, ma non necessariamente, ma soprattutto deve avere la trazione sulle ruote. Non può essere un veicolo a propulsione. A reazione. Siamo negli Stati Uniti, dove si è tenuto questo Speed Week, questo appuntamento con queste macchine velocissime. Ma tu, Fabio, è una passione che ti porti dietro da tempo, ma la costruisci qui, l'hai costruita qui in Italia, il mezzo? Sì, la macchina l'ha costruita Mario Villa a Birone di Giussano, e è stato un lavoro di vecchi compagni di avventura. Perché avevamo già fatto altre vetture un pochino più convenzionali, decisamente lente, roba sotto i 300 all'ora in passato, ma non per queste categorie, abbiamo fatto automobili diciamo tradizionali. Ecco, e la prova, la gara come funziona? Questo è un grandissimo happening dove partecipano dal 1948 400-500 iscritti, quest'anno erano quasi 600, auto, moto, camion, veicoli modificati, veicoli d'epoca, automobili da record vere e proprie. È una gigantesca manifestazione, ci sono quattro tracciati lunghi 8 miglia l'uno, è tutto molto semplice tranne la parte tecnica. La burocrazia è ridotta al minimo, di fatto devi fare un'autocertificazione medica e pagare $50, è tutto qui. E poi c'è questo lago salato che è una grande pista naturale su cui sfrecciare. è una, sono diciamo le vestigia di un antico lago, è una superficie di sale duro senza vegetazione, perfettamente liscia, che durante l'inverno si allaga con un metro d'acqua che poi evapora e lascia quindi una pavimentazione perfettamente liscia e levigata. Ecco, ma tu il tuo prototipo l'avevi provato anche in Italia? Si può dire? Cioè, l'hai provato in strada? Non credo. No, in strada rischiavo 2000 anni di arresto. No. Abbiamo fatto solo una piccolissima prova microscopica all'Autodromo Nazionale di Monza, dove però ci hanno messo a disposizione gentilmente il rettilineo, che anche aggiungendo un pezzettino in fondo alla chicane comunque sono 1600 metri, ma è servito solo a metterlo in moto e a poter muovere i primi passi, perché la vettura in prima marcia raggiunge 250 km/h, quindi anche partire da fermi è molto difficile. E ce li hai i freni, sì? No, abbiamo dei paracadute. Ho capito. Ecco, ma infatti per raggiungere questo record, ricordiamo 494,487 km/h, su quale distanza? Il miglio cronometrato è tra il quarto e il quinto miglio, e per velocità si intende la velocità media realizzata su questo tratto lungo un miglio. La prova deve essere ripetuta due volte entro 4 ore. È vero che hai un po' il rammarico di non avere sfondato la soglia dei 500 km/h? Beh, ho una buona scusa per tornare. Bravo, questa è la risposta giusta. Grazie davvero a Fabio Montani, l'uomo jet, l'unico italiano ad aver raggiunto un primato in una manifestazione del genere, e soprattutto l'italiano che è andato più veloce finora su un'automobile. Ciao Fabio, buon ritorno in Italia. Ciao, a presto. Ciao. Noi invece rimaniamo negli Stati Uniti e rimaniamo insieme ad Alex Bellini. È la numero 64, questo significa che ne mancano solo 6, questo significa che sabato arriverà a New York, questo significa che sabato avrà corso per oltre 5.000 chilometri. Alex Bellini è qua con noi in collegamento dalla Pennsylvania. Ciao Alex. Ciao Federico, eccoci. Hai già fatto le valigie? No, ma che quelle si fanno sempre all'ultimo momento. Volevo dire una cosa, anch'io voglio quella macchina lì che va a 400 all'ora, Non è mica che io debba andare avanti a 5 o 7 km orari. Ma voglio anch'io un po' più decisa la traversata. Tra l'altro credo che ultimamente di macchine ne stai vedendo molte, vero? Perché ti stai avvicinando alle grandi città e il traffico aumenta. Sì, è vero, vediamo adesso. Ormai sono diventate proprio questione di ogni giorno, grossi, insomma tante macchine, benché ogni tanto, come in questo momento, adesso avete sentito appena l'ultimo un'altra macchina, però ci siamo addentrati, adesso oggi stiamo percorrendo una striscia di terra sul confine tra la Pennsylvania e il Maryland, ed è molto bello perché praticamente le strade sono vuote, c'è molta gente che se ne va in campeggio, che se ne va a fare i barbecue anche nel bosco, quindi oggi, per dirvi, sembra un po' quelle colline toscane con vegetazione, insomma molto molto carine, molto molto belle. Siamo così fuori dai centri urbani che abbiamo iniziato a fare anche le prime conoscenze con la popolazione Amish, che immagino tu certo conosca un pochettino, no? Sono queste figure un po' sfuggenti, che però danno un tocco di antico a questa terra, che invece ormai è pervasa dalla modernità.

E ogni puntata di Mine Vaganti si chiude appunto con una mina vagante musicale. Andiamo a scoprire altri modi di fare musica. In quest'ultima puntata abbiamo scelto una strana mina vagante musicale. Si chiama Psicantria, una fusione di parole. È un progetto che nasce dalla passione per la musica e da, da due psichiatri e psicoterapeuti, ma anche cantautori. Si chiamano Christian Grassilli e Gaspare Palmieri. E Gaspare è proprio qua con noi. Ciao Gaspare, benvenuto a Mine Vaganti. Ciao, buonasera a tutti. Sento le note di Psicantria in sottofondo. È il vostro inno, è il vostro inno. Sì, è il nostro inno, un grande onore che la canzone sia arrivata fino a Radio 24. Gaspare, ma che cos'è questa psichiatria? Che insomma, prima di imparare a dirla, anche lì è un esercizio. Allora, psicantria innanzitutto è un neologismo che abbiamo coniato, che vorrebbe dire come cantare la psichiatria, quindi una psichiatria cantata. Come dicevi tu, io sono psichiatra e cantautore, il mio socio Christian Grassilli è uno psicologo, psicoterapeuta e cantautore, e in questo progetto abbiamo unito le nostre due passioni, quindi da una parte la passione per la musica, per lo scrivere canzoni, e dall'altra la passione per il nostro lavoro, e quindi abbiamo pensato di scrivere delle canzoni che parlassero dello psicomondo, cioè del mondo della psichiatria e del disagio psichico, chiaramente in modo insomma un po' particolare, forse come non era mai stato parlato da certi punti di vista, anche perché appunto fossero state scritte molte canzoni rispetto a questo argomento, con fondamentalmente l'obiettivo di far parlare di più di questi argomenti per raggiungere più persone possibili e parlare di temi appunto come la depressione, l'anoressia, come anche la figura dello psichiatra, dello psicologo, insomma, cercare un po' di spiegare alla nostra maniera in cosa consiste questo mondo così variegato, certo, e questi argomenti così attuali. Ecco, la musicoterapia non è disciplina nuova e la vostra non è musicoterapia, nel senso che voi utilizzate la musica per passare dei messaggi, dei concetti, delle nozioni? Esatto, sì, non è proprio una musicoterapia, nel senso che noi abbiamo proprio fatto questo concept album, possiamo definirlo, proprio per raccontare le storie di persone che soffrono di questi disturbi e raccontare un po' il mondo della psichiatria attraverso la musica, poi che ne possa essere fatto anche un uso terapeutico, nel senso che in un gruppo si possa ascoltare questa canzone, commentarla, possa suscitare dei commenti eccetera, quello può fare, però assolutamente non c'è uno scopo diciamo terapeutico nel nostro progetto. Certo, insomma, almeno. Però insomma ci sono potenzialità in queste canzoni. Gaspare, ci ascoltiamo insieme uno spezzone di un altro brano e poi ci racconti come e perché è nato. Poi mi ritrovo fuori col peso, perfino l'aria mi fa ingrassare, i carboidrati si è andannati, le proteine, quelle sgualdrine e tutti i grassi son satanassi. Dai, vieni fuori, mangia lo specchio. Jessica l'anoressica è il titolo di questo pezzo. È il dramma dell'anoressia raccontato con una canzone, ma non solo, perché tu per esempio, Gaspare, mi pare che lavori appunto con le ragazze anoressiche e a loro hai fatto ascoltare questo brano? Sì, io non è che proprio lavoro specificatamente con in un reparto per persone anoressiche, però sì, ho fatto ascoltare questo brano a tanti gruppi di pazienti e devo dire che i feedback che abbiamo ricevuto sono stati positivi, perché chiaramente il problema che ci siamo posti all'inizio quando abbiamo cominciato a scrivere le canzoni è anche quello appunto di non, visto che a tratti viene utilizzata anche l'ironia, però è un'ironia che ha quasi anche un significato provocatorio o terapeutico, non certo un significato di scherno, ci siamo posti il problema se queste canzoni potessero essere in qualche modo irrispettose verso insomma le persone che hanno avuto questo tipo di esperienze. Devo dire che, come spesso succede, i nostri pazienti sono molto più autironici e molto di molte altre persone, anche fra virgolette normali, e assolutamente ci hanno incoraggiato ad andare avanti, perché comunque hanno sentito queste canzoni come vere, fondamentalmente nate su, da un'esperienza sul campo, dove ci può stare a volte anche il fatto di scherzare, di prendersi in giro e non sempre solo di avere un atteggiamento anche pietistico o negativo rispetto alla salute mentale, insomma. Ecco, tutto questo credo che con Funky Fobico esca molto bene. A me il mondo fa paura, temo il rischio, l'avventura, e l'ambiente lo controllo, odio il tuo fiato sul collo, evito le novità, voto per la libertà, ma se rimango solo l'ansia mi assalirà. www.psicantria.it è il sito ufficiale per conoscere il progetto e il lavoro appunto di Cristian Grassigli e Gaspare Palmieri. Lì ci sono anche tutti i riferimenti al libro più CD pubblicato con la Meridiana, se non erro, Gaspare? Esatto, con la Meridiana, con prefazione di Francesco Guccini, che voglio anche ringraziare per la disponibilità e salutare. Salutare, ha scritto una prefazione, è stato scrivendo delle cose molto positive su queste canzoni, proprio mi sono piaciute quanto almeno ha scritto, e questo ci riempie di orgoglio, insomma. Tra l'altro so che, insomma, al di là delle canzoni molto belle, temi importanti, no? Perché anche la leggerezza in questi temi drammatici ha la sua valenza educativa e divulgativa, che è quello che fate. Poi so che usate comunque la musica, i testi, so che De André, Vasco Rossi, insomma, soprattutto nei lavori che fate con i ragazzi, c'è proprio un lavoro di ricerca e sfruttare, tra virgolette, i pensieri e i testi altrui, poi per in chiave propositiva. Quindi, insomma, attraverso il sito sì. Si può davvero conoscere tutto quello che fate. Grazie davvero e complimenti per il vostro lavoro. Ciao Gaspare. Ok, ciao, grazie. Ciao. E chiudiamo questa ultima puntata di Mine Vaganti. Un grazie a voi per averci seguito in tutte queste domeniche. È stato molto bello e molto avvincente. Abbiamo raccontato una bella Italia. Mine Vaganti di Radio 24 su Facebook. Rimarremo e continueremo comunque ad animare lo spazio. Un grazie a Roberto Scaltritti con me alla parte tecnica, e un grande grazie a chi con me ha costruito queste puntate: Alessandro Balia, Margherita Ina e Laura Vanossi. Un bel lavoro di squadra per fare belle puntate di Mine Vaganti. Ancora ciao e grazie da Federico Taddia.